due palle, che se te le presto non sapresti come usarle. Mangio pasta al pesto, fumo canne, potrei fare a gara con Bob Marley. NPT patto di sangue, ma è stato morto di fame. Divido il piatto in parti uguali, il conto cambia ma io no, resto uguale. Dio perdona i peccati che ho combinato in strada. Ho venduto la morte che aveva figlie che aspettavano la cena a casa. Madre tossica di Ero, padre tossico di Bamba. Bevo Jack a canna, mando giù come se fosse acqua. Vacanza in Spagna con i soldi dello sport. Me la spasso, spero solo non m'allaccio. Ora ho un contratto, ora puto mi tassano. Fanculo Salvini poto, fanculo lo Stato. Studiare per farlo operare. Per 20 pali all'anno non sono mica uno schiavo. Vacanza a Monte Carlo, casa vista sul mare, coi pavimenti marmo, mica bimbi del cazzo. Corsa d'emergenza, fanculo il traffico, vado a spasso nel battimo. Niente panico, cuto, serramanico, ci vuole un attimo a sapere dove sei te, chi ti sta a fianco. Fumo un criptonite, mi si accelera il battito. Caricatore pieno, lo svuoto sparando sull'albero.